140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale, @140caratteriR24, ma anche il mio account, @MartaCagnola. Torniamo al Taormina Film Fest nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Hotel Imperiale, Taormina. Una delle attrici più amate di Hollywood, basta il nome, Meg Ryan. Ma come si sente a essere considerata da tante donne un esempio? Questa domanda mi sorprende sempre, perché non mi sono mai considerata un esempio, un punto di riferimento. Peraltro non so nemmeno se gli attori, gli artisti, gli sportivi dovrebbero esserlo. Non credo debba essere una conseguenza del loro ruolo. Credo che gli artisti dovrebbero sentirsi liberi di essere semplicemente umani e commettere errori. Quest'idea che ci viene imposta per cui se tu sei un attore devi rappresentare un esempio, beh, non sono necessariamente d'accordo. Penso che a volte ci sono degli impegni che mi posso assumere, che posso talvolta utilizzare i riflettori che mi illuminano per mettere in luce una causa a cui tengo. Lo farei e l'ho fatto, ma non credo che essere attore ed essere un esempio siano due cose accoppiate per natura. Harry, noi saremo soltanto amici, ok? Certo, amici, è la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici? Perché no? Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente. Non è così. Sì, invece. No, invece. Sì, invece. Tu credi che sia così? Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene? No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. E come lo sai? Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quella. Sei diventata famosa per delle commedie. Quanto è stato difficile imporsi anche come attrice drammatica? Guardandomi indietro, credo che in certi casi il pubblico avrebbe dovuto essere più preparato a vedermi in certi ruoli, magari tramite i giornali, la stampa. Di fronte a film come In the Cut, la gente è rimasta quasi scioccata nel vedermi nel personaggio di un'alcolizzata. Capisco lo stupore, ma so anche che non devo farmi influenzare da una cosa del genere. Penso anche che nel dramma ci debba essere la commedia e nella commedia un po' di dramma. Non sono due cose così distanti come sembrano. Sì, forse la gente non mi ricorda subito per quel tipo di film, ma sono contenta di aver fatto tante cose diverse. Se pensi che ho fatto 38 film, metà sono commedie e metà film drammatici. Va bene così. Io credo che si divertano molto. E come lo sai? Lo so, perché lo so. Perché loro... Sì, perché loro... E come lo sai che veramente... Ma che stai dicendo, che fingono l'orgasmo quando... Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme. E io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicolo. Oh, sì, sì, sì, così. Sì, sì, ancora, ancora, ancora. Quello che ha preso la signorina. Come sei riuscita a conciliare la tua carriera con la tua vita, la tua famiglia? Mi sono allontanata per un po' dal mondo del cinema e sono contenta di averlo fatto. Mi sono trasferita a New York, ho una bambina di 8 anni. Sono felice di dire che ho una vita piena. Penso che per un po' di tempo ho fatto troppe cose. Essere famosi è un gioco molto strano. Per me è sempre stato importante vivere in maniera autentica e quando sei popolare, se non stai attento, rischi di cadere in una grossa confusione. Sono contenta di essermi allontanata dal cinema finché ho ho potuto. You can get pretty confused, so I'm happy to have stepped away for as long as I have. Signora Haynes, non so come riesca con la vita che fa a trovare anche il tempo per le attività benefiche. Oh, beh, mi impasticco. Idi, non volevo dire niente, ma Mary è come una sorella. Mary? Devi essere una tomba, chiaro? Steven si è fatto un amante. Oh, ma no! Misericordia! Se la spassa con una donna che lavora dietro il banco dei profumi. La spruzzatrice. Che bella cosa, eh? Ti prego, Alex, non ora. Come l'ha presa lei? Non lo sa ancora. Come sarebbe a dire non lo sa ancora? Mary, c'è un motivo se siamo tutte qui con te oggi. Siete qui per la stronza dei profumi. Ha detto che adori guardare i classici e hai girato il remake di un grande classico, The Women, forse il primo film femminista. Ma come hai affrontato questo remake? I think so much of that experience was all of the cast loving that movie Credo che il segreto di quell'esperienza sia stato il fatto che tutto il cast viveva il film originario come un culto. Conoscevamo a memoria tutte le battute. Ci ricordavamo esattamente come Rosalind Russell aveva fatto questo, come Norma Shearer aveva fatto quello. Cercavamo di non farci influenzare troppo, di cancellare i ricordi, di rendere la storia attuale, ma avevamo una sorta di devozione alla vecchia storia. La regista Diane English, in particolare, era felicissima di avere un cast di donne, senza nessun uomo di mezzo, di girare a New York. Ma è stato proprio l'amore per il film originale che ci ha unito tutte. Hotel Timeo, Taormina. La sua voce è inconfondibile, per lui però pure tanto impegno per l'ambiente. Ma anche Jeremy Irons si sente un punto di riferimento? È una grande responsabilità. Non so se sono un punto di riferimento. Ognuno sceglie a chi ispirarsi. Ma spero di essere un esempio nel fatto che faccio quello che mi piace fare e che cerco sempre di farlo al meglio. Credo che sia l'unico modo per affrontare la vita, qualsiasi cosa tu decida di fare. Non importa quello che fai, fallo al meglio delle tue capacità. Preoccupati delle persone, preoccupati delle cose, preoccupati dello stato del mondo, sii responsabile. Siamo così fortunati per le cose che ci ha dato la vita. Qualunque sia la nostra situazione, abbiamo sempre qualcosa che ci può rendere felici. Soprattutto in un giorno così e in un posto come questo, a Taormina, con il cielo azzurro sopra di noi, l'architettura meravigliosa, la vegetazione. Siamo così fortunati. Dobbiamo sempre ricordarcelo. E dobbiamo ricordarci che insieme a tutte queste meraviglie viene la responsabilità di conservarle al meglio che possiamo per le future generazioni. Quando ho girato Trashed, il film che ho presentato qui a Taormina, che qui ho mostrato anche agli studenti, ho messo in luce quello che sbagliamo, che fa del male al nostro pianeta, alla nostra salute, a noi stessi, fa male alle generazioni future. Ho parlato di una situazione che dobbiamo riorganizzare, di cose che dobbiamo imparare ad affrontare in maniera diversa. E solo se guardiamo più da vicino che iniziamo a vedere gli effetti dei nostri consumi. Lo compriamo, lo seppelliamo, lo bruciamo. Ora non possiamo più ignorarlo. C'è qualcuno che sa cosa sta succedendo a noi tutti? Non è solo un problema locale. Si può permettere che la nostra società useggetta diventi parte della biologia dell'oceano. Produciamo troppi rifiuti. Non pensiamo alle conseguenze quando buttiamo via la roba. Stiamo avendo un impatto ecologico sul nostro ambiente nella sua totalità. La natura funziona costruendo e distruggendo, costruendo e distruggendo. Continuiamo a mettere cose nell'ambiente che non si degradano. Ho una voce. Non ho molto potere, ma ho una voce che viene ascoltata. I politici hanno il potere. Sono loro che devono operare i cambiamenti. Devono affrontare coloro che hanno interessi finanziari, che spesso hanno a che fare con l'industria dei rifiuti. I loro comportamenti devono cambiare. I politici devono obbligarli. I politici sono lì per proteggerci, per migliorare le nostre vite, non per arricchirsi. Credo che sia responsabilità loro quella di riorganizzare quell'industria, così da non sprecare più risorse, proteggere la nostra salute e il nostro ambiente. To reorganize that particular industry so that our health remains safe and our environment remains unsullied. Se aumentano nel corpo, diventano la causa di tante malattie. La donna ha un modo per eliminarle, si chiama avere un bambino.

come dire, non è una forma di preconcetto, di pregiudizio nei confronti della tecnologia, che semplicemente mi annoia a morte, preferisco farmi una passeggiata, leggermi un libro, andare al cinema, piuttosto che rimanere chiuso, collegato in questa piccola scatolina di dimensioni peraltro troppo contenute per la mia vista, per il mio cervello, quindi ho bisogno di più spazi, spazi aperti, aria aperta, quindi ho un rapporto, come dire, di uso tutto sommato, insomma, legato più che altro al mio lavoro. Il rapporto con le donne del personaggio del tuo film, sei accerchiato da una serie di figure femminili. Sì, assolutamente, fanno parte di tutte quelle micro, grandi manie, che di ossessioni, se vogliamo, alle quali lui è attratto, portato, e nell'universo femminile fanno parte donne di come dire, di estrazioni, generi completamente diversi dalle straniere che lui trova attraenti in quanto, come dire, poco vestite, poco truccate, assolutamente nella loro semplicità, alle suore, piuttosto che trova, come dire, attraenti quelle cose che normalmente forse non sono le prime cose che un uomo noterebbe in una donna, però lui le trova assolutamente attraenti, si fa anzi desideroso, ci prova anche con la suora a modo suo, trovando chiaramente un muro, una barriera, anzi essendo anche un po', come dire, frainteso nel suo tentativo di rimorchiarla. La maniacalità è anche un porto sicuro, il costruirsi tante cose di cui non si può fare a meno. Assolutamente, certo, questa è un po' la chiave di volta del personaggio. Lui, anzi, il problema di Lupo è proprio questo, che avendo fatto suo un mondo del tutto particolare, non riesce a, come dire, avere a che fare con un mondo normale, con quello che c'è al di fuori di casa sua, della sua piccola tana, del suo piccolo rifugio. E quindi questo conflitto viene, che è un conflitto che va, come dire, parallelo a quello artistico, a quello professionale, verrà snocciolato alla fine proprio con la conoscenza di una donna che lo porterà piano piano fuori da quell'involucro, da quel guscio che lui ormai ha come una sorta di chioccia, e appunto parallelamente anche si snocciolerà la questione professionale, quindi ritroverà una vena artistica. Le due cose corrono sullo stesso binario, parallele però. Indossi il braccialetto del WWF con il panda, ma tu hai nostalgia della tua Cina? Sì, ho una nostalgia che spero mi piacerebbe colmare in un qualche modo, forse che ne so, con qualcosa di legato al cinema, al mio lavoro, però è sempre un tentativo che rincorro con enormi fatiche, perché oggi la Cina non è più la Cina che io ho conosciuto, è una Cina completamente diversa, quasi spaventosa per come io l'avevo conosciuta. Però è ovvio, è stata molto formativa quell'esperienza, sono legato, amo la cultura orientale, quindi sì, diciamo che il panda la rappresenta molto bene e ne sono ancora fortemente attratto. Hotel Timeo, Taormina. Premiate a Taormina i nuovi idoli del web, comicità corrosiva e politicamente scorretta che viaggia su YouTube. I romani, The Pills. Luca, Luigi, Matteo. The Pills, da dove nasce intanto questa espressione e quest'idea? The Pills era fondamentalmente abbiamo tentato di creare una palestra su internet fatta per chi voleva, insomma, addentrarsi in questo fantomatico mondo dell'intrattenimento che è abbastanza blindato qui in Italia. Nasce come contributo di pillole, per l'appunto, piccoli sketch di varia durata per la rivista Dude Magazine, e poi si è diventato qualcosa di più e è andato per la sua strada, ecco, come progetto. Una sketch comedy fatta praticamente a base di black humor, slapstick e comicità, diciamo, di ogni genere, molto anglofona. Oh, ma l'hai visto il film dei Puffi? Il film dei Puffi? Il film dei Puffi. Ma ti pare? Dai, è una di quelle boiate tipo Garfield, Alvin. Un capolavoro, che poi. Oh, ma che capolavoro? Guarda che la gente per i Puffi fa delle cose fuori di testa. E i Puffi sanno che ogni arbusto Puffa vero. È speciale e un giorno fiorirà. Puffa vero. Stanno attenti, sai, a non strappare proprio mai i fiori e tutto il verde che nel bosco c'è. Puffa vero. visto che abbiamo parlato di comicità anglofona, chi sono i vostri riferimenti? Perché uno potrebbe vedere Jarmusch, potrebbe vedere chi, cosa sono? C'è Jarmusch, diciamo di comedy c'è sicuramente Monty Python, Louis C.K., i fratelli Zucker per Luca, giusto no? C'è un mashup insomma di registi, comici, esatto. Trey Parker e Matt Stone, ideatori, scrittori e creatori di South Park, la commedia italiana. Per esempio, cioè, anche uno sopra tutti in termini proprio che è anche paragonabile a mostri sacri della comicità internazionale, per me è Fantozzi. Ma la domanda è, adesso non so se avete visto anche che Fiorello ha fatto un grande successo con l'Edicola Fiore in rete e non in TV. Ma ci si può accampare? Cioè, o bisogna sperare poi di approdare su un altro medium al momento? Esclusivamente di rete, diciamo che per adesso ancora l'obiettivo è quello di sperare di creare un modello che possa integrare quello che è il sistema internet insieme alla televisivo. Quindi cercare una combinazione che possa integrare e far convivere entrambi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.